giorni di cose devo fare, di sicurezza, penso di essere lunedì, non lo so. Ah, già, va bene, allora, meglio così. Eh sì, casino, raga. Perché? Lo dico, ci aspettiamo. Non guardiamo novembre, non è ancora nulla, siamo a febbraio. La stiglia lì la mia finita, amico. Quello che avevo detto, quello... passi da un computer all'altro, oppure li puoi usare tutti e due, e in uno non c'è nessun filo di connessione, per non avere cavi per terra e via dicendo. Ho comprato anche quello lì, perché se io sto giocando per dire col computer, mio figlio deve entrare nel suo, può entrare tranquillamente, non mi disturba. Che casino, vuoi pagare troppo, è troppo 60 euro di due. Quella magnifica, no, qui, quest'angolo mio, sembra una centrale nucleare. Tacca pagato. Suiaia. È un casino vero, vabbè, curva. Non c'è un problema, non c'è un problema. D'accordo. C'era, oltre a te. C'era gusto, ma credo che sia andata a mangiare. La tannina è andata a mangiare, Capredue è andata a caricare, Gianni Doppiolino sta aspettando a Giuseppe perché devono salire da Porpugno. Niente, poi c'era già Maestrale che sta facendo una bassa a Roberto e ha detto che rientrerà subito, adesso vediamo. Ehi, sto qua anche ora, voglio dire qualcosa. Sono già pronto qua. Fate le picche. Anda per mela. Gianni. Pronto, dobbiamo giù. Sì, avanti. E il movimento si vola? Sì, mi sto salendo la casa di Pomponi. Non pesa. Qui se ne sono tutti pronti andati a caricare. Preoccupato dalla vostra assenza. Mario. Dimmi. State scusando Roberto, sta meglio, sta. Però per precauzione è rimasto a casa oggi. Poi può rimanere anche domani tranquillamente, non c'è problemi lui. Vabbè, certo, lavorando è meglio, però prima di fare qualche ricaduta, perché magari lo trovo debole, io sarei rimasto anche domani a casa, tanto non c'ha problemi, capito? Cioè ne può fare almeno domani, perché magari adesso lo trovo debole, coso, giù in quella via, purtroppo ci sono sempre correnti d'aria, e poi entrando e uscendo, sai come ti trovo un po' sudato, cosa? E ti prega subito. Va bene, va bene, comunque grazie. Che cappa, quanto volevo dire? Solo sei rimasto. Lui c'è già nello Perun che è il movimento che sta andando verso casa di Pomponio, gli altri sono tutti quanti andati a caricare. Beh, 8:10 sono loco, è presto. Ma io oggi stacco un po' la mia tenuta perché vorrò vedere anche la partita, quindi ancora ci abbiamo altri 10-20 minuti. Là. Gianni, per il microfono stai andando? È bello, guarda, ha mirato il coso, il Galaxy, vedrai quanto si ammira bene quella il Galaxy col microfono. Vabbè, adesso lo vediamo, bisogna vedere se per la mia voce sia la... Beh, fatelo, dai, lo provi stasera e poi se no lo restituisci, domani lo restituisci se non ti va bene la tua voce. Fai me le prove e via. No, fatto. Sì, ciao, Luca. E beh, tutto bene? Ascolta, un attimino, vediamo un po'. Bisogna vedere se lontano. Aspetta. Allora, vediamo un po' con questo. Esatto. Com'è il segnale? Vediamo un po' se l'altro è meglio o peggio. Il segnale mi interessa, ma poi la radio volta qua è più forte, lo so già, perché me l'hanno già detto. Vai. Guarda, adesso si è arrivato, 9:10 si è arrivato. Ti aspetto. Allora, ti arrivo, più forte o più basso? Adesso quanto Luca. Adesso quanto Luca. Un po' si avanzò. Aspetta, guarda un po', vabbè, non è più basso questo, guarda un po'. Allora, così. Ah, così, cosa dice? Vai. Allora, sei salito da 8, sei salito a 9, quasi 10. È quasi 10, ma questo qua è da 24, il blu strano. Ma l'altro, scusa, quanto non deve essere invece? Allora, questo qua è un apparecchio. È da 20, quasi 20 watt, dai, quasi. E l'altro è da modulati 15, 13, 15, dai. E sai cos'è? Cosa c'ha più picchi positivi questo? Hai oscillazioni che vanno da 10 a 15, diciamo, e hai picchi positivi molto. Grosso, vediamo un po' da Mario. Mario, com'è il segnale da te? Guarda, questo qua è uno. Aspetta, cambio il commutatore e provo con l'altro, eh? Vai. Provo con l'altro. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma per me mette dando sempre 9, 15. Non ci arrivi, però questa qui la radio è molto più forte, quella là è molto più bassa. Puoi segnare il numero qua, eh? Sì, vabbè, siamo lì. Va bene, lo stesso, interessante sentirci, dai. Allora, scusa, ma tu qua sei quasi 9,5, la radio a bomba, e Mario è 9,20. Gatta, sì, va bene, va bene. Sai cos'è? Questa radio va molto meglio. Quella che usano, perché Luca? Ma poi che famoso era tuo, stico di me, la Fayette, dai qua. Questo qua è un assettare quello lì, e guarda, di radio va benissimo, il segnale non può variare di 5 dB, cosa te ne frega, Luca. Va bene questo, la radio è stupenda, guarda, con te che il microfono stai portando. Radio 4 modificato. Quello di solito è la solita station che avevo due anni fa, un anno fa, due anni fa. E l'altro che cos'era invece? L'altro è Milan 8001. C'ha 800 canali, guarda laterali, frequenzimetro, il beep, un sacco di cose. Sì, ma il microfono non è lo stesso, no? No, normale, tanto è tutto questo, non cambia niente, non spinge. Ok. Allora mi si può fare qualche altro microfono. Quello Shure che c'ha un altarino magari dove si mette, non è? No, non mi interessa, vado, non mi interessa. Se riesco mi compro 140, adesso vediamo un po'. Se riesco, se mi va una cosa, diciamo, vado, devo fare un passaggio, ecco. Vediamo un po', se mi va a buon fine, mi prendo 140. E non sbagli, e non sbagli, è definitivo, con tutti i soldi che si spendono sui vecchi, almeno quello lì è definitivo. Va troppo bene. Ma no, quelli stai usando tu adesso? Ma io sto usando sempre il Galax. Se poi non ti piace, me lo dici che cambio. Con il radio, non so, Marco. Come, cioè, come Luca? Sì, con il radio che c'ha. Sì, va bene veramente, va. Però aspettami, attacca il carro che mi tappa al 140. E devo staccare il cavo, corretto. Vabbè, là, stia contento. Datemi 5 minuti. No, appunto, quindi se fai per queste cose, fregate, pensavo che avessi il computatore girato e pronto. Allora, pazienza, stancavo e agganciavo. No. Sai che quando io avevo problemi, dove si arriva lo smitta, non so perché, poi si è ripreso. Non so, guarda, è proprio... Normalmente l'elettronica è una cosa un po' strana, ma l'ho avuto già parecchie volte, non so poi si riprende, adesso non so se era il freddo, l'acqua, al freddo era, tu dici che è una giornata fredda, era anche umida era, però l'ha fatto, cioè tu perché già, ne ho fatto in due che avevate quel problema, poi tu l'hai risolto, nel senso che l'hai risolto il giorno dopo, Gianni dopo un paio d'ore stava uscendo bene. Allora, io ho il capo grosso, quello 213, no? Lo spettatore è lo stesso, e va dal commutatore al baracchino. Io ho rifatto un BL e si è messo a posto. Poi l'indomani lì, non la butti a capo, e te fa siamo già, non so, non sapevo più cosa fare. Infatti io sto pensando, qui c'è il capo dell'antenna, c'è il PN del capo dell'antenna. Ma uno di questi giorni, perché è un casotto, ciao, guarda, perché c'è la doppia cassa, bisogna piegarla bene, no, un casino, ci vuole 10 minuti a farlo. 20 minuti, lo devi fare con calma, perché se rimani sta sempre tagliando, tagliando, tagliando. Ma ti guarda un capo qua, era più lungo, adesso è pure italiano, poi non ci arriva più e un casino, tocca mettermi un marinotto con uno spezzone, con un spezzone sottile. Ma non lo lascio così e se non andando, se non la butti più lunga, non ne prendo più, cioè non ne prendo più tempo sui maracchini, va, non sono rotto le scatole. Oh, capo, Luca, quando va, ma non so quel capo, ce l'ho anch'io, ma c'è una parte va bene, una parte è troppo rigido, a girarlo, e si muove meglio e fare a parte, molte volte manca niente che ti si mettono in fianco, non riesce a fargli fare curve, per carità, non so, però non c'ho quello, mi tengo quello adesso. Ah, ok, vediamo un po', Mario, hai contatto? Cazzo. No, non ho fatto niente, mi ha detto lascia stare. Ma adesso un attimino te lo attacco. No, lascia stare che fate il campo che sto chiudendo. È una bella partita, dai, 5 minuti, dai, domani, dai, uno domani. Domani vuol dire, invece di iniziare col campo, fai un giorno uno, vai, iniziare col Daci, fai un giorno uno, un giorno l'altro, dai. Infatti sto facendo voi un giorno uno, un giorno l'altro, perché sennò poi si impallano e non vanno bene. Però tutti quanti mi dicono che questa qui la radio è molto più forte, più bella e niente, si può sentire dappertutto, eh. Si conferma. Tanto non si chiuda. Scusa Luca, perché che stava che ha parlato Massimo Romanti? E si conferma. Ah, tu sei anche, scusa, ma io sapevo che avevo fatto quello di. Avanti, cosa stai dicendo Mario? Che la migliore è quella, Mario, già lo sa Mario. Sì, sì, no, no, beh, sì, no, ce l'ho bene. Ma anche con la bici 60 e con l'abbinamento 140 c'è bene. Mario vuole un po' regolato perché è una questione di regolazione, quello lì, è molto più sensibile. A parte Luca. Ma come c'è, non c'è più l'altro lato, forse il lavoro. Sì, come non ci sono più? Sempre. Ma sapevi se? Sempre lì, ancora lì, noi siamo lì, ma spero per breve. Ma capito, iniziamo lì? Vai, poi, noi siamo lì, ma spero per breve, perché forse c'è qualche cambiamento all'orizzonte. Ah, capito, ma come non c'è più quel ragazzo? No, nessuno dei due, siamo solo noi, perché stiamo prendendo una decisione. Forse vediamo un po', ci sono dei cambiamenti a breve e quindi ho preferito iniziare a leggermi. No, stavo lavorando tutti e due, uno da una parte, uno dall'altra, quindi ho trovato posto. No, io dico quello che c'è Tom Bianca, sta a fare i nomi. No, non c'è più, è già 2 anni che non c'è più. Ma non ho più visto neanche in giro Luca. Perché un po' non andava. E poi se non ci di più. Non andava. Vabbè. Ascolta, dimmi una cosa. Perché non posso portare la tifita, poi mi dispiace, costano 100 euro o 120 euro. I pezzi che ho sotto la moto mia. Siccome quando ha grippato il pallone che me li ha dati. Ha solcato un po' il cilindro, cosa ho fatto? Guarda, la carta metà l'ho un po' pulito, cioè ho già fatto un po' il piano.